Anche nella nostra parrocchia si usa fare, lodevolmente, come si fa in diverse parrocchie, il Santo Rosario che precede la celebrazione della Santa Messa. E quando, come oggi, viene recitato senza correre, con calma, riflettendoci, è un grande momento. E io che amo insegnarvi usando il linguaggio di tutti i giorni, vi dico una cosa che forse qualcuno di voi ha già sentito, ma certamente molti altri no. Il rosario è una preghiera anche difficile, ma anche facile. Basta che la facciamo come il minestrone. Quando fai un minestrone di verdura in casa tua, cosa fai? Metti a bollire e di solito a fuoco lento, prolungato, e tutte le verdure che hai in casa tua le butti dentro. E se all'ultimo momento ti salta fuori qualcosa, dentro anche quello. Tu lasci bollire lentamente e alla fine viene fuori una squisitezza. Il rosario io lo paragono a questo e io lo vivo così. Ci butto dentro tutto quello che mi passa per la mente. E allora penso alla Madonna, ma io non guardo la statua della Madonna, guardo il tabernacolo, perché lo so, ma lo so per davvero, che la Madonna è presente dove c'è l'Eucaristia, non manca mai. E allora guardo il tabernacolo, penso alla Madonna, penso ai misteri che sto pensando, poi penso alle persone per cui devo pregare. Oggi pensavo anche a Hiroshima e mi fermavo su e facevo passare nella mia mente alcune fotografie che ho visto di questa desolazione infernale, perché queste cose le può volere solo Satana, non le può volere mai Dio. Guai se attribuiamo a Dio la guerra, il male, i terremoti, gli incidenti, le malattie. Guai, guai, guai. Dio ha creato il mondo bello, dice il libro della Sapienza. La morte è entrata nel mondo a causa del peccato e ne fanno triste esperienza coloro che gli appartengono, a causa di Satana. Pensavo a Hiroshima, pensavo a Fatima, perché sto leggendo, mi sto preparando per una conferenza su Fatima. La conosco Fatima, ma amici, com'è bello rileggere quello che già sappiamo. Scopriamo tutti i particolari. Che questa signora dica a tre bambini, 10 anni, 9 anni e 7 anni, ma capite, li fa missionari del rosario per la pace. Fatima è il rosario per la pace. E allora capite che ha ragione Benedetto XVI quando dice: credete che Fatima sia conclusa? O tu senti altri, meno autorevoli di lui, ma persone ugualmente, che dicono: Medjugorje è la continuazione. Lo dirà la storia. Però a Medjugorje la Madonna è la Madonna della Mir, della pace. E a Medjugorje il rosario va alla grande e si prega. Cari amici, preghiamo il Santo Rosario, preghiamo l'Eucaristia a cui il Santo Rosario ci introduce. Preghiamo per la pace. Io mi sono sempre chiesto, ma cosa vuol dire pregare per la pace? A parte che vuol dire 100 cose, pregare per la pace anche nelle nostre famiglie, dove la pace tante volte non c'è. Pregare per la pace. Io ho pregato in questo rosario, ho messo dentro in questo minestrone anche i partiti politici italiani che parlano di giustizia e si fanno la forca l'un l'altro, elegantemente, in guanti gialli. Ma dov'è la pace? Pregare per la pace non vuol dire, Signore, fa scendere dal cielo la signora pace, che dice a tutti smettetela, fate i bravi, se no... Pregare per la pace vuol dire lo Spirito Santo che scenda nei cuori e converta i cuori. Se non viene lo Spirito Santo non ci sarà mai la pace. Si va avanti nelle nostre famiglie per 20 anni a non fare la pace tra sorelle, a non andare al funerale delle proprie sorelle, a non invitare al matrimonio, alle prime comunioni i parenti, perché non c'è pace. O lo Spirito Santo entra dentro e liquefà i nostri cuori col suo amore, o altrimenti saremo duri. Figuratevi nel mondo, figuratevi nei contrasti tra gli estremismi religiosi, non dico tra le religioni, perché forse i loro capi stanno cercando di capire fratelli tutti, ma tra gli estremismi religiosi di tutte le parti, tra le economie, dove la morte tua è la vita mia, le armi. Parlano tutti di pace e il mercato degli armamenti. Chi è capace di fermarlo? Ma per piacere, né il Papa, né la Chiesa, né le minacce. Stiamo combattendo con una fatica estrema il Covid e io inorridisco al pensare che ci sono i magazzini mondiali pieni di bombe virali, piene di bombe atomiche che distruggerebbero il mondo 10 volte, 20 volte, e non riusciamo, o il creatore del mondo, o lo spirito che rinnova la terra, o la Madonna, regina della pace, sono capaci di toccare i cuori, altrimenti, amici, ecco, un rosario può pensare a tutte queste cose, e poi arriva la Santa Messa e dici, Signore, portaci tu che sei il re della pace, tu che ci hai dato la regina della pace, tocca i cuori degli uomini. Ormai gli uomini sono disincantati, non credono più alla pace. Una volta facevano, perché erano spinti dai partiti, le marce per la pace, la bandiera della pace, le manifestazioni per la pace. Oggi la gente non ci crede neanche più, va avanti come riesce. Forse sono rimasti solo i cristiani a pregare con Maria, col Rosario, con l'Eucaristia per la pace. O Signore, dona la pace all'umanità, tocca i cuori degli uomini, affinché siano capaci di fare un passo indietro. Commentavo ieri la crisi di Cuba, dei missili, se vi ricordate. Mai come allora siamo arrivati sull'orlo del vulcano. E mai come allora la preghiera degli uomini di buona volontà e del Papa Giovanni XXIII hanno scongiurato. E qualcuno è stato capace di girare le navi e di tornare indietro. Oh Signore, fa così ancora oggi nel mondo e fa che anche nelle nostre famiglie siamo capaci di girare le nostre batterie di armi e di fare un passo indietro e così sia.